è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Amore, amore mio, mon amour, o sai, non ti aspettavo proprio più. E te volevo scrivere una lettera, però a giù pensate, meglio una canzone, perché no, teneva voglia pazzi di vedere. Eccoci qui con la Zanzara, caro Parenzo, buonasera. Buonasera a te, direttorissimo. In postazione sono, postazione esterna. Postazione esterna, piazza di Pietra Roma, se non sbaglio, no? Piazza di Pietra Roma, davanti, sì, solito posto. Se alla, volete, alla caffettiera, se volete, caffettiera. Potete convenire verso Davide Parenzo, che si trova al centro senza di Roma. Senza tirarmi il Duomo di Milano, infatti. No, senza picchiarlo, anche se dice delle cose cattive, bruttissime nei confronti di Berlusconi. 800 24 00 24, microfoni aperti, qualche voce di giornata o della serata precedente, poi subito un ospite. Partiamo da Rosy Bindi, credo, a Ballarò. Aveva ragione Veronica Lario, sentite. I magistrati hanno smentito che sia stata. Ha detto le cose vere. Aspetti, aspetti, ora ci arriviamo. Allora torna a lei, torna a lei. Che l'ha chiamato imperatore. Perché sei così e agitata, che ha detto che aveva qualche problema. E la sua ex moglie magari era arrabbiata. Allora. Sì, era arrabbiata. Onorevole Bocchino, può essere che il punto non sia. Il punto non sia. Stagione niente più. E dunque Bocchino, a proposito della frase di Berlusconi di ieri sui gay, la spiega così, naturalmente contro Berlusconi. Meglio un figlio che va con le prostitute che un figlio frocio. Questo poi è il messaggio che vuole dare Berlusconi al paese per sottrarsi rispetto all'accusa che gli viene fatto. E non è questo, perché l'Occidente si sta discutendo su come combattere l'omofobia. L'Italia è uno dei pochi paesi che non ha l'aggravante sull'omofobia, per cui tu se dai un pugno ad un signore dicendo sporco ebreo c'è una discriminante religiosa, o sporco negro c'è una discriminante razziale, hai l'aggravante. Se dai un pugno ad un gay, dici sporco frocio, non c'è l'aggravante. Questa sull'omofobia mi pare un po' tirata. Comunque, insomma, la polemica ci può stare. Maurizio Lupi, sempre ieri sera a Ballarò. Berlusconi, questa è un po' curiosa, Berlusconi non ha mai dato festini. Il Presidente del Consiglio non ha mai dato festini. E io ho partecipato e sono stato invitato sia ad Arcore che a Villa Certosa con la mia famiglia, con mia moglie, e non ho partecipato a dei festini. Beh, certo, vorrei far presente l'onorevole Lupi, che apprezzo e stimo, che evidentemente i festini si svolgono quando lui non c'è, secondo i racconti che leggiamo in queste ore che avevamo già letto. Non è che se Lupi va con la moglie ci deve essere forse il festino che poi viene raccontato in queste ore sui giornali. Comunque, insomma, questa è l'opinione di Lupi. E infine Frattini, Berlusconi amico di Mubarak, che non avrebbe confuso la marocchina con l'egiziana. Berlusconi è amico personale del presidente Mubarak, tutto avrebbe potuto immaginare tranne che fare uno sgarbo al presidente Mubarak. E in più, se avesse conosciuto l'identità nazionale di questa ragazza, mai avrebbe potuto confondere una marocchina con un'egiziana. Amore, amore mio. Va bene, vi ripeto il numero 800 24 00 24. Le notizie di oggi sono però che il Forum delle Famiglie, c'è una conferenza tra qualche giorno, tra l'altro organizzata più o meno da Carlo Giovanardi, dice che la presenza di Berlusconi, che doveva inaugurare con un intervento lunedì prossimo questa conferenza, ci imbarazza. Daniela Santanchè, sottosegretario del governo Berlusconi, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Senta, ma questo forum delle famiglie che dice che la presenza di Berlusconi è imbarazzante, il presidente di questo forum, condivide questa cosa? Lei immagino di no. No, beh, assolutamente non posso condividerla, non soltanto in un'ottica delle politiche sulle famiglie che questo governo ha voluto fare, ma anche su quello che il governo ha fatto, che credo che sia molto in sintonia con i cattolici italiani. Vorrei capire se vorrebbero le coppie gay, il riconoscimento delle coppie gay, le coppie di fatto, l'eutanasia, avessero pensato una legge sulla procreazione assistita come abbiamo fatto noi in maniera diversa, l'ICI sui patrimoni ecclesiastici che il nostro paese ha combattuto. Però mi scusi, mi sembra che la polemica mi sembra che la polemica non sia su queste cose qui, sia sul comportamento, sui comportamenti privati di Berlusconi, comportamenti privati che poi diventano inevitabilmente anche comportamenti pubblici. Dice questo signor Belletti, che è il presidente del forum delle associazioni familiari, che alla luce degli ultimi eventi ci imbarazza il dibattito sui comportamenti pubblici e privati del premier, che non ci vede in sintonia. Scusi, non capisco. Intanto vorrei ricordare questo, lo dice questo signor Belletti, ma il presidente Berlusconi è un uomo separato, quindi è un uomo single che non ha legami, e quindi che in questo momento non ha un legame con una moglie e si comporta, voglio dire, che tradisce la moglie in tutti quegli aspetti che possiamo parlarne. È un uomo separato, è un uomo che ha dei figli meravigliosi, e basta leggere tutto quello che i figli dicono del padre Berlusconi. Credo che come comportamento, sia con i suoi primi due figli che sui primi suoi secondi figli, in tutta 5 figli con i nipoti e un nonno assolutamente adorabile, per cui dico, qual è il problema? Senta, però dovessimo raccontare la storia non dell'Italia, ma di quasi tutti i paesi nel mondo, giudicando i comportamenti nella camera da letto, allora noi in questo momento stiamo anche festeggiando i 150 anni, il 150esimo dell'Unità d'Italia. Lei sa che Garibaldi è stato il primo uomo ad avere una legge ad personam, o parliamo di Vittorio Emanuele con la Rosina. Adesso non andiamo a Garibaldi e Vittorio Emanuele. Il problema è un altro. Io posso capire che il presidente del forum delle associazioni familiari, siccome si discute della famiglia, delle leggi a favore della famiglia, di fronte al fatto che uno poi lo può negare, che Berlusconi organizzi ogni tanto, come dice lui, dei festini con 20-30 ragazzi a casa, un po' abbia qualcosa da dire. Dice proprio l'inaugurazione da Berlusconi, che ha una vita così allegra dal punto di vista personale, mi mette un po' in imbarazzo. Lei non lo può capire? No, guardi, sa perché non lo capisco? Siccome io sono sottosegretario di questo governo Berlusconi e quindi dell'attuazione del programma, allora mi piacerebbe che il presidente dell'associazione di questa famiglia vorrei che parlasse di ciò che questo governo ha fatto. Penso solo al fondo dei nuovi nati, che abbiamo messo un prestito a tasso agevolato fino a 5.000 euro, le cose sul bonus sull'elettricità. Cioè il presidente non dovrebbe interessarsi, lei dice, degli affari privati di Berlusconi. No, ma dovremmo parlare del fisco amico per la famiglia. Vabbè, ma questi sono provvedimenti di cui si può discutere all'infine, cioè secondo lei di questo deve parlare rappresenta le famiglie italiane, deve parlare di quelle politiche a favore della famiglia che il governo ha fatto. Parenzo, secondo te? Intanto saluto l'onorevole Santanchè. C'è Parenzo che è a Piazza di Pietra. È chiaro che c'è come dire una contraddizione, non tanto politica, ma quanto probabilmente etica, se anche tra gli organizzatori di questo forum, di questa conferenza nazionale, hanno posto il problema. C'è un dibattito, un gruppo di lavoro che si chiama Ruolo educativo della famiglia e sistema formativo. E che cosa va a dire Berlusconi in questo dibattito che ha questo? Che avere un figlio frocio è una disgrazia? Cioè, parole dei leader sono da esempio. Ma io sono anche una madre. Io sono un padre e dico che se ho a mia figlia, non è che gli vado a dire, figlia mia, se sei lesbica mi taglio una gamba, perché le disgrazie della vita non sono per la figlia lesbica. Ma chi l'ha detto questo? Il machismo sfrenato. No, ma chi l'ha detto? Parliamo di Silvio Berlusconi che ha detto questo? No, è proprio di che state parlando? Perché io sono due argomenti diversi. Sono due argomenti della frase di Berlusconi. La frase di Berlusconi. Figlia lesbica l'Italia la gamba. Sono due questioni diverse. La questione dei comportamenti di Berlusconi e la questione della frase di ieri sui gay. Sono due questioni completamente diverse. Sia della frase dei gay, sia della Però lasciamo perdere la questione familiare. No, Vabbè, cioè, onorevole Santanchè, ma che ieri... paese è? Perché Parenzo viene da Marte, ma non ha ascoltato quello che ha detto l'abbiamo ascoltato tutti allora la frase. Allora cosa ha detto Berlusconi? Vuole che romanesco è meglio andare con le donne che essere froci, questa no, è la cosa. Non ha detto è meglio, ha detto a me piacciono le donne, cioè a me non è meglio, il meglio l'ha aggiunto lei. Non ma ha detto che è meglio. Insomma, quello che viene fuori è un giudizio. No, le dico io da madre che se lei mi chiedesse, non a me, ma a tutte le mamme italiane, se preferiscono avere un figlio eterosessuale o omosessuale, le risponderebbero che tutte le mamme italiane preferiscono avere un figlio eterosessuale. Lei quanti figli ha? Non le mi sembra evidente, un maschio. Lei... mi auguro che sia eterosessuale, ma non per altro, gli vorrei ben uguale, sarei felice, lo amerei nella stessa maniera. Ma ha fatto indagini su questo, cioè si è preoccupata? Anche voi. No, ma si è preoccupata di questo? Ho fatto indagini e mi sembra evidente che le madri italiane preferiscono avere un figlio etero. Cioè lei ha fatto indagini sui gusti sessuali di suo figlio? No, così per capire. Ma lei che cos'è? Mica uno stato di polizia. Ma no, indagini con la polizia, mi scusi, non volevo intendere questo. No, cioè, si è interessata. È una convenzione, usiamo le parole. No, che si è interessata ai gusti sessuali di suo figlio per capire se è omosessuale o eterosessuale. No, così, no, questo lo dice lei. E lei me l'ha detto adesso. No, io ho detto che da mamma, se lei mi chiede, come a tutte le mamme italiane, se preferiscono avere un figlio etero o un figlio omosessuale. E poi le ho chiesto, lei si è interessata? E lei mi ha detto sì. Mio figlio è un ragazzino di 14 anni, per adesso mi sembra che abbia una sessualità. Però perché uno si deve porre questa domanda da madre? Io non lo capisco. Io perché? Proprio... glielo spiego in maniera molto semplice. Me lo spieghi. Perché tanto c'è il problema della procreazione, che penso che, voglio dire, sia ambito da tutti poter un giorno diventare nonna ed avere dei nipoti, prima questione. Sì. Seconda questione, per una vita più semplice per mio figlio, perché comunque è innegabile che cioè essere etero è più delle difficoltà essere maggiori. Etero è più semplice nella vita certo che è più semplice e la vita è più semplice, tant'è che stiamo combattendo l'omofobia appunto. Questo tipo di discriminazioni ha fatto Berlusconi. Però mi pare di capire che se uno si interessa dei gusti sessuali della propria prole ma lei fa il padre, scusi, ma che no, io faccio il padre, certo, faccio il padre, certo. Dire, saprà se suo figlio è etero o omosessuale. Sì, ho capito, però non mi pongo questa domanda, ha capito qual è la differenza? Non mi pongo questa domanda, perché se me la pongo... sono felice, poco di suo figlio, ma non mi pongo, a parte che... Se un padre disattento non è colpa mia. No, è troppo piccola per occuparmene ancora. Ah, ecco, troppo piccola. Ma anche se fosse... 14 anni parlerà anche della sessualità. No, ma certamente è una cosa... Certo che parlo della sessualità, però non mi pongo il problema dell'eterosessualità o dello... Non c'è da porsi un problema, lei mi ha detto siccome le parole hanno un peso, lei fa indagini sulla sessualità di suo figlio. No, però io vivo con mio figlio, parlo con mio figlio. Parliamo anche di sesso e a 14 anni, visto che mio figlio ha 14 anni, mi racconta delle sue emozioni, delle sue sensazioni, tutto normalissimo, da ciò evinco che mio figlio ha una sessualità etero. Perfetto, e dunque lei preferisce, secondo lei? Figuriamoci, però lei preferisce la sessualità etero alla sessualità omo? Non preferisco, ho detto per un figlio preferisco se mio figlio è eterosessuale, perché è una vita più semplice, perché un domani mi piace fare la nonna. Però dire questo secondo me nasconde un po' un pregiudizio, però ma lei ce l'avrà lei il pregiudizio? No, vabbè, ma lei questa se lei non ha un pregiudizio, no, però se uno si pone questa domanda dicendo che la vita è più complicata, secondo me è già insito un pregiudizio nel porsi la domanda. È una sua visione. No, ma è una mia visione, madre, non ho pregiudizi. No, ma io faccio il padre. La vita di mio figlio e mi auguro, perché non è che essere etero deve diventare una discriminante, che mio figlio sia eterosessuale, perché è una vita più semplice, perché le dirò una cosa banale, mi auguro un domani di avere dei nipoti, che la procreazione tra due uomini o tra due donne mi viene un po' difficile immaginare. No, certo, però le dico una cosa, adesso c'è la pubblicità, non c'entra niente, siccome lei ieri ha commentato questa cosa a corollario della frase di Berlusconi, questa considerazione sulle preferenze dei genitori per un figlio etero uomo non c'entra assolutamente nulla con la frase di Berlusconi, ma torniamo subito. Amor, amor mio, mon amour. Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Beh, diciamo che certo parlava in prima persona, poi la considerazione finale sembra essere di carattere generale, ma abbandoniamo questa discussione sulle singole parole, sono sempre che facciamo l'esegesi parola per parola della frase di Berlusconi. Un'altra questione, onorevole Santanchè, è questa: le sembra normale in tutta questa vicenda, che oggi è stata in parte chiarita dal procuratore Bruti Liberati, che certamente non è un berlusconiano, che ha detto che tutte le procedure sono state regolari e che la questione dell'affidamento alla Minetti è sembrata la soluzione più ragionevole, al di là delle questioni giudiziarie, le sembra normale che una ballerina brasiliana, glielo dico in maniera molto diretta, che una ballerina brasiliana abbia il telefono personale di Berlusconi e riesca a contattarlo magari in maniera più semplice rispetto a quello che può fare lei o può fare un altro deputato? Siccome a differenza di altri io sono veramente per le libertà individuali, sì. Ognuno le amicizie se le sceglie come vuole, purché voglio dire nel proprio rispetto nella propria dignità. Io non so sindacare chi sono i suoi amici, non voglio sindacare nemmeno su quelli che sono del Presidente del Consiglio, perché se noi vogliamo anche limitare, cioè voi vi state strappando i capelli per una frase che ha detto il Presidente Berlusconi sui gay e vi dovreste strappare i capelli. Se qualcuno invece vuole decidere su quelle che sono le amicizie personali. Ma no, ma non è questione di amicizie, perché ognuno può avere tutta l'amicizia che vuole. Io sto parlando della facilità con cui, rispetto ad altre persone che hanno ruoli istituzionali, così come racconta qualche senatore del PDL, della facilità con cui una ballerina, ma non perché ce l'abbia con le ballerine brasiliane, ecco, perché sarebbe discriminante. No, assolutamente, perché di questo si tratta, una ragazza brasiliana abbia il telefono diretto del Presidente del Consiglio. Non la stupisce questa cosa? Cioè, non la sorprende o no? No, per no, niente. Sorprende lei, a me, le ripeto. Io lei quando deve contattare Berlusconi come... delle amicizie di ognuno, che siano del Presidente Berlusconi o che siano del portinaio di casa mia, ci mancherebbe che io sto a sindacare nel privato chi si frequenta. Ma non c'è un problema di sicurezza secondo lei, no? Come pone oggi anche D'Alema. Ma perché per voi è il problema di sicurezza? No, per voi è una domanda, una domanda. Perché mi fa un po' sorridere, ma no, ma è un problema la sicurezza. Ma no, ma la sicurezza, cioè non è così semplice, se qualcuno vuole contattare Sarkozy non credo che una ballerina brasiliana per strada chiami il presidente francese, non credo che sia così, però insomma... Lei non crede, io non ne sono a conoscenza, per cui non parlo di quello che non so. Le dico che non voglio decidere Sarkozy... devono essere le amicizie di chi che sia. Forse... ognuno si sceglie la miglia amici che vuole. Forse Sarkozy era l'esempio sbagliato, però in realtà da questo punto di vista. Mi sembra invece la cosa importante che non è come era Marazzo, che voglio dire aveva certe frequentazioni. Vabbè, con adesso la lei fa la differenza tra Marazzo e Berlusconi. No, a me da politico mi interessa una sola questione. Marazzo ha meno disponibilità finanziaria di Berlusconi. Ma questo non è questo il punto. Il punto è mi interessa se si spendono i soldi dei cittadini, se si usano i beni dei cittadini. Secondo alcuni carabinieri lei ha letto oggi, sì. Alcuni carabinieri dichiarano che, poi non so, bisogna verificare naturalmente, alcuni carabinieri dichiarano che fanno da scorta in realtà non a Berlusconi ma portano in giro ai festini le ragazze. Questo che è da verificare, per ma non stiamo dire parlando di reati. Non da stiamo politico parlando di reati. E da cittadino che i soldi dei cittadini non vengano spesi per soddisfare i propri gusti sessuali. Poi se il Presidente del Consiglio nella sua camera da letto fa quello che fanno tutte le persone del mondo, lo fa uguale, lo fa in maniera diversa, non è un discorso che mi riguarda e che voglio commentare perché sono rispettosa. Quindi non mi interessa. Ma per cui non le sembra strano che una ragazza brasiliana per strada chiami il Presidente del Consiglio? No, sai cosa mi interessa molto? Che Repubblica è andata avanti 4 giorni con i titoli, la telefonata, Mubarak, nipote, pressioni e tutto, e il procuratore capo di Milano, che certo è molto distante da Silvio Berlusconi, l'ho già detto, sì, è uscito con le dichiarazioni, perché se noi andiamo a vedere negli ultimi 10 giorni si è partiti dall'escalation su Antigua, offshore, offshore. Le offshore sono di altri che non sappiamo ancora di chi. Berlusconi la casa l'ha comprata a titolo personale e dichiarata come persona fisica. Poi abbiamo la procura di però adesso Milano, non parliamo di adesso abbiamo Palermo. Senta, però il fatto stesso di aver telefonato, onorevole Santanchè, cioè il fatto stesso che Berlusconi chiami la questura non è un qualcosa di anomalo. Lasciamo perdere l'aspetto giudiziario, quello che ha detto Bruti Liberati, va benissimo, l'abbiamo scritto, qui questa non è Repubblica, qui non siamo mica Repubblica, però il fatto stesso Sole 24 ore appunto, non è Repubblica, una cosa, ma è Sole 24 ore. E che vuol dire che è Sole 24 ore, mi scusi, cioè che siamo contro Berlusconi? No, voglio dire, abbiamo Sole 24 ore, abbiamo ostilità, cioè abbiamo ostilità nei confronti di Berlusconi? No, ma volete essere così liberi? Vuol dimostrarmi che anche lei non ha un padrone che non segue una linea editoriale? Ma io non seguo nessuna linea editoriale se non quella che viene dalla mia testa, per fortuna. Sono contenta che lei è un uomo libero. No, ma io sono un uomo liberissimo, ma non anche felice. Quando ci sono linee editoriali, però non è che siano una follia avere linee editoriali. Cioè non, no, e in questo caso non esiste una linea editoriale su questa vicenda qui. Perfetto, sono contenta. Così, siamo tutti contenti. Siamo contenti. L'esistenza stessa di una telefonata non è qualcosa di anomalo? No. Ma guardi, io trovo che questa telefonata, se l'avessero fatta milioni di italiani, sarebbe stata meritoria di qualcuno che evita di andare in una casa famiglia a una persona e che trova una persona maggiorenne incensurata che fa un collocamento temporaneo. Dunque, come la Caritas, no, detto Rudy. Non come la Caritas, no. Come è meritorio di qualsiasi cittadino, di qualsiasi paese a una manifestazione di solidarietà. Poi se vabbè, lei vuole farmi dire che se lo fa Berlusconi invece bisogna metterlo in galera. Ma no, ma chi è che vuole andare in galera? Va bene, grazie, buona grazie serata. Grazie. Giornale Radio delle 19. Eccoci, 19:16, questa è la Zanzara, 800-24-0024, subito collegamento prima dei titoli dei telegiornali con Piazza di Pietra, la nostra redazione distaccata a Roma con David Parenzo, che credo sia in compagnia del viceministro Castelli. Proprio così, siamo per esempio in via dei Bergamaschi, perché abbiamo scelto una location anche appositamente lombard per noi, come dire, profughi qui a Roma, e ti passo subito in esclusiva assoluta il viceministro. Aspetta, esclusiva assoluta, siamo adesso non esageriamo, comunque. Buonasera, come sta? Senta, la nostra vecchia battaglia, quella su Battisti, insomma, io ho un po' paura, ministro Castelli, questo Lula potrebbe decidersi entro il 31 a dare la grazia, o comunque lei è ottimista o non la segue più questa vicenda? Ma francamente ultimamente la seguo solo sui giornali. Io sono un po' pessimista. Noi abbiamo la coscienza tranquilla, abbiamo fatto una battaglia di giustizia. Riteniamo che Battisti sia stato un terrorista condannato da un regolare processo, da un tribunale assolutamente legittimo, quindi il Brasile si prenderà le proprie responsabilità, abbia assolutamente la coscienza tranquilla. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per fare giustizia. Ma anche lei la vede male o no? Ma guardi, non lo so, non faccio previsioni, nel senso che, ripeto, in qualsiasi modo vada, il governo italiano, lo Stato italiano ha fatto quello che doveva fare. Vabbè, ma insomma, questa qua quindi, su questo sono tranquillo. Poi quando si fa un lavoro come il nostro, questa è la prima questione. Poi non si può gestire tutto il mondo. Ovviamente il Brasile è uno Stato sovrano e farà le sue come meglio ritengono. Senta, però andiamo alle notizie di giornata, soprattutto una. Oggi Bossi ha detto che la questione di Ruby è certamente un danno per l'immagine del paese, perché bisogna vendere i titoli di Stato. Mi spieghi un po' questa cosa? È un danno anche per lei, per l'immagine del paese, la vicenda di Ruby e dei festini a casa di Berlusconi? Beh, sicuramente non è un fatto positivo. Poi quanto incida sull'immagine del paese, questo non saprei. Io devo dire però che dai blog che vedo, da quello che si sente per la strada e quant'altro, gli ammiratori di Berlusconi lo stanno perdonando senza remore. Quindi mi spieghi questa cosa, in che senso? È una questione che riguarda più noi addetti ai lavori che non i cittadini, che tra l'altro hanno, non è una frase fatta ma la verità, problemi più impellenti e più pressanti per la loro vita familiare. Cioè il Berlusconi macio, lei mi sta dicendo, è l'immagine che prevale vincente tra i cittadini italiani, è questo che lei mi dice? No, io ovviamente non sono un sondaggista, registro nel mio piccolo, conosco tanti diciamo cittadini normali, sì, che sono ammiratori di Berlusconi. E cosa dicono? Bravo che e dicono tutto... No, bravo no, però dice sì, è un vizio, ma è un vizio, è un peccato veniale, gli altri fanno anche di peggio. D'altro canto Bossi l'ha detto, è molto peggio il concorso dei notai taroccato dove non c'era neanche un commissario sopra Roma. Questo per noi è sicuramente molto peggio ai fini della vita sociale italiana che non le questioni private del Presidente del Consiglio. Senta, certo, ma lei l'ha telefonata in questura? Se non ci fossero state queste vicende, ovviamente sarebbe stato meglio. Ma lei l'ha telefonata in questura? Io la conosco, se l'ha telefonata in questura, mi dica la verità, non l'avrebbe mai fatta. Io? Devo dirle proprio la verità. La verità, è certo, nient'altro che la verità. Come non si... l'avrei fatta per due motivi. Primo, perché non avrei mai avuto la materia del contendere. Quello. Non so se per fortuna o purtroppo, non lo so, perché la ragazza lì mi sembra assolutamente degna di nota, però non avrei mai avuto questa occasione. Secondo, nel caso assolutamente ipotetico che l'avessi avuta, non l'avrei fatta. No, ma al di là della ragazza, non l'avrei fatta, perché sicuramente a me avrebbero mandato quel paese subito dal ble, quindi perché l'avrebbero mandato a quel paese, dice? Castelli, mi sente? Che è successo? È andato giù il telefono proprio nel momento clou. Adesso ci rimettiamo in collegamento. 800 24 00 24. Cristian da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Senta, Parenzo, ci sei? No, non c'è nessuno. Adesso ripristiniamo il collegamento. Cristian. Sì, buonasera. Senta, io ho sentito l'intervento della Santanchè, no? E mi ha lasciato veramente perplesso il fatto che difenda sempre in maniera allucinante il Premier nonostante tutte le cose che combina. Mi sembra, se non erro, ieri la trasmissione di Mentana. Un attimo solo, Cristian, resti lì che concludo con Castelli che deve andare via. Resti lì, non vada via. Senta, perché l'avrebbero mandato a quel paese, Castelli? Perché l'avrebbero talmente male le telefonate che mi cade anche la linea. Quindi. Perché l'avrebbero mandato a quel paese? Perché io non sono un potente della politica. Vabbè, no. Quando era ministro, dico, insomma, quando era ministro con un minimo di potere. Ma lei si immagina se avessi fatto da ministro io a un magistrato, la telefonata del genere, la povera Rubi l'avrebbero tenuta in galera Però al di là di Rubi, della bellezza del ragazzo o meno, c'è la telefonata in questura per risolvere una questione privata da uomo delle istituzioni, l'avrebbe fatta lei o no? No, io l'avrei fatta, cioè non c'è nessun motivo. No, non l'avrei fatto. E le pare normale che qualcuno abbia, una ballerina brasiliana in questo caso, abbia il numero privato del Presidente del Consiglio? O sono affari suoi? O è un problema anche di sicurezza? Questi sono affari suoi. Non è un problema di sicurezza? No. Assolutamente no. Voglio dire, questi sono affari privati su cui io non entro assolutamente minimamente. Chi ha il suo telefono? Persone, ballerine brasiliane? No, ballerine brasiliane non ce l'hanno. No. Guardi, all'inizio c'erano poche persone, poi attraverso una sorta di gemmazione alla fine sono costretto a cambiare telefono. È colpa nostra. È sempre colpa nostra. Ma comunque mi chiama l'universo, il mondo, anche i personaggi più strani, a quel punto sono costretto a cambiare telefono. E ricominciare da capo. Quindi un'ultima cosa, questo purtroppo... lei ha figli? Mi sembra di sì, no? Sì, ho figli. Quanti figli? Uno, diciamo, dal primo matrimonio e uno acquisito con il secondo matrimonio. Anche lei? Anche lei una vita privata un po' scombussolata, no? Scombussolata, insomma, nella normalità, direi. Senta, ma anche lei... come la Santanchè e altre persone, vedo molti ascoltatori, preferisce avere figli eterosessuali che omosessuali, o non si pone la domanda? Posso dirglielo con grande sincerità della sempre, rivista. Sempre. A me piacciono le donne, cosa vuol che le dica. Sono contento che mio figlio sia felicemente sposato con una bella ragazza. Questo va bene, d'accordo, lei è felice che suo figlio... Lo dico senza nessun infingimento, per carità, io ho anche amici omosessuali, però potendo scegliere preferisco le donne. Però porsi la questione non è un po' discriminare? Cioè, se uno si pone la questione, non so se lei se l'è posta la questione, se è una sua preoccupazione, per la Santanchè per esempio è una preoccupazione. Berlusconi ha espresso una preferenza, c'è chi piace il mare, chi la montagna, lui ha detto rispetto agli uomini preferisco le donne. Condivido assolutamente questa sua affermazione. Beh, non ha solo detto questo, ha detto è meglio guardare le belle ragazze che essere gay, insomma. Dal mio punto di vista sicuramente, che a me piacciono le belle ragazze, considero gli uomini sotto altri aspetti, quindi sicuramente per me, credo anche per Berlusconi, sia molto meglio guardare le belle ragazze. Ecco, ma insomma voglio dire, però questa frase non è un po' infelice, questo me lo può dire, insomma, lei uno lo può pensare in privato così, mi piace una ragazza piuttosto che gay, ma un presidente del consiglio che fa un'affermazione del genere, insomma, se la può anche evitare o no? Ma qualsiasi affermazione può essere evitata oppure no, ma voglio dire, anche questa è un'affermazione che nasce da una considerazione di carattere privato, non implica minimamente, credo, un giudizio di natura politica, costituzionale o sociale. Cioè non, ha parlato l'uomo Berlusconi e ripeto, l'uomo Castelli è perfettamente d'accordo con lui. Bene, bene, bene. No, perché... mio dubbio. No, vabbè, ma, ho capito, se parliamo di preferenze, d'accordo, ma insomma. Però lei preferisce gli uomini o le donne? Se mi è consentita la domanda. No, ma lei può farmi anche le domande. No, preferisco le donne. Però, vedi, allora sei d'accordo. Sì, però non lo proclamo, ha capito qual è la differenza? Cioè, non è che lo dico, non è che ho bisogno di dire. Ho detto alla radio, lei ha centinaia di migliaia di ascoltatori. In questo momento la radio lei ha detto che preferisce le donne agli uomini. Vedi, sì, l'ha detto anche lei. No, ma certo. Però per i figli, perché uno deve porsi la questione che è meglio essere eterosessuali che omosessuali? Mi scusi, perché? Ma lui non ha detto questo. No, questo l'ha detto la Santanchè. Non l'ha detto Berlusconi, però siccome è una domanda che ci stiamo ponendo da ieri, cioè anche io se... le dico la verità. Mi dica. Io vorrei che mio figlio fosse felice. Perché secondo lei... Io vorrei che mio figlio fosse felice e avesse una vita soddisfacente per lui. A prescindere dai gusti sessuali. Attraverso quali vie lui voglia arrivare a questa soddisfazione, a soddisfare la sua vita, sono problemi suoi. E dunque anche i gusti sessuali le sono indifferenti, dei suoi figli le sono indifferenti? No, sarei ipocrita a dire che mi sono indifferenti. Sono contento che mio figlio abbia una bellissima ragazza come moglie. E se fosse omosessuale? Ma ne farei una ragione, vorrei fare. Sarebbe dispiaciuto? Se fossero. Nella misura in cui lui trovasse dei problemi di natura sociale o fosse in qualche modo discriminato, sì. Altrimenti no. Vabbè, è tutto. La riconsegna alla sua passeggiata al centro di Roma. La ringrazio, anche lei mi è molto simpatico, fa una trasmissione molto bella, quando appena posso l'ascolto. Grazie. Posso dire qual è la sua caratteristica? Mi dica. Mi piace molto, perché è un po' leghista. Qual è? Che l'ascoltatore suo non ha sempre ragione, ogni tanto le domanda a quel paese e fa bene, nel senso che... Sa che la cosa che mi rimproverano di più, quella di mandare a quel paese... No, invece ogni tanto... è il suo grande questo è il suo grande valore aggiunto. Lo so, ogni tanto bisogna mandare a quel paese qualcuno, sennò altrimenti che... Cioè, ma non... Parenzo davanti a me che ride col suo sorrisetto diabolico. Da quanto vi conoscete? Vabbè, perché Parenzo è... Da tanto tempo. Tra l'altro ho saputo adesso quanti anni ha, vuol dire che ha cominciato a tormentarmi quando aveva i calzoni corti, evidentemente. Va bene, buona serata. 19:27 e 40. Parenzo, fra poco torniamo con te. Cristian, ecco qui. Cristian, scusi, Cristian, no, dovevamo chiudere questo siparietto simpatico. Cristian, dica. Sì, no, stavo dicendo in merito all'intervento della Santanchè che sminuiva quello che ha fatto e quello che ha detto Berlusconi. Allora, io vorrei analizzare quello che ha fatto Berlusconi da due punti di vista. Uno, il fatto che il Presidente del Consiglio creando queste situazioni, è fondamentalmente ricattabile. Dopodiché mi porterei anche sul fatto che, come ha detto sua moglie, secondo me è un fatto rilevante, è una persona sostanzialmente malata. Sì, però mi scusi, citare ogni volta, io lo trovo profondamente sbagliato. Citare ogni volta quella famosa lettera di Veronica, eccetera, eccetera, in una situazione familiare evidentemente compromessa, di rapporti compromessi, secondo me è veramente strumentale. Cioè, lei ha ragione, però. Cioè, citare la frase, l'ha detto pure la moglie che è malato. Ma francamente. Ma dipende dai punti di vista, io sottolineo che l'ha detto la moglie, perché la moglie. Lei è sposato, Cristian? Lei è sposato? Sì. È sposato, felicemente, o comunque, insomma, in una situazione, diciamo. Beh, di tranquillo. Adesso sì. Per adesso sì, no, perché non la voglio portare male. Però, insomma, può capire che se il rapporto con sua moglie a un certo punto prende una butta piega, se ne dicono di tutti i colori, no? O no? Sì, però, cose false, vere. Lei non può negare che l'intervento della moglie era qualcosa di. No, ma io non nego nulla. No, certo. Da tempo ed è stata. Sì. Ed è stata, diciamo, aggredita da Santanchè. Certo. Ma io non discuto questo. Voglio focalizzarmi su quello che diceva malato, perché va con i minorenni. Stiamo parlando. No, ma non ha detto va con le minorenni. Non ha detto proprio questo. Va con le minorenni. Abbiamo la borsa. Torniamo subito. Resti con me. Salutiamo e benediciamo, amate pecorelle. Parenzo, ci sono novità, ci sono novità. Mio Dio, ma non era all'estero l'uomo? La fuga dei cervelli c'era stata, no? Dal 10 dicembre. Ah. Ci sono novità dalla cancelleria, ebbene sì. Novità dalla cancelleria del Divino. Oh my God. Il titolo di questa novità, di questo comunicato, che a te non arriva ancora, spero, perché sennò avresti citato per danni il Divino. No, no, non arriva più niente. Il Divino canta a Rai Extra. Performance del Divino Telma nella trasmissione Rai Una poltrona per due, che canta una canzone scartata, secondo lui ingiustamente, dal Festival di Sanremo del 2008. Esiste ancora il buon gusto, per fortuna. Però io ti vorrei far ascoltare un piccolo stralcio, diciamo, un piccolo pezzo di questa canzone, che secondo il Divino è stata ingiustamente cassata per motivi di lobbying, eccetera, eccetera, al Festival di Sanremo del 2008. Il titolo della canzone me lo scrivete, per favore? Vivi la vita, com'è? Vivi la vita. Ecco, me l'hanno riferito. Meraviglioso. Andiamo. Questo è epocale, eh? Epocale. Sentiamo, via. Ascoltami e seguimi, ti darò quel mondo che tu cerchi. Vedrai, la notte è buia senza chi ti può portare quello che tu vuoi. Aspetta qui con me, che in un momento ti dirò come farai. E allora vivi la vita seguendo la strada più bella che capiterà. Hai capito? La riconosci? No. La riconosci la voce del Divino o no? Una cosa aberrante, terrificante, prima di gusto, cacofonica, con questa voce vivila. Ma che roba è? Ma cosa pensa di aver scritto? Ma pensa di essere battiato? Ma veramente, che Rai Extra, io ci fossi uno che paga il canone, ti chiederei subito immediatamente i danni alla Rai per mandare in onda una roba simile. Vogliono distruggere la Rai, è la prova che vogliono distruggere la Rai mandando in onda questa roba pazzesco. No, ma la denuncia al tribunale dei minori, mi meraviglio che la procura non abbia aperto l'inchiesta. Sentiamo ancora il Divino, lo sai, perché la felicità è più che mai vicino a te, afferrala. Vabbè, chiudiamo con il Divino o Telma. C'è una profezia, Qual è? Qual è la profezia? La care pecorelle, la procura archivierà presto la vicenda di Rubio e della telefonata. Così è scritto, così è detto. Scusa, ma ecco, ha detto oggi. Bruti Liberati oggi, praticamente. No, abbiamo detto noi. Noi della cancelleria diciamo che presto verrà chiuso il caso. Il caso è risolto. Ecco, la minchiata della serata. Sigla, sigla di chiusura. La sigla di chiusura è sulle note di Vivi la vita del divino Otelma, cassata al Festival di Sanremo del 2008 secondo il divino ingiustamente. Bene, riprendiamo. 800 24, tutti voi potete giudicare naturalmente. 800 24 00 24. Cristian, allora, per chiudere, scusi questa telefonata un po' complicata, ma abbiamo avuto prima Castelli, poi questa cosa del divino, insomma, ci siamo un po' fermati. Prego. No, secondo me stavamo parlando delle affermazioni di Veronica Lario, sì, nei confronti di suo marito, allora? Che lo giudicava malato. E come lei stesso prima tendeva, diciamo, a sminuire in maniera molto più light rispetto ai cosiddetti Berlusconi, se comunque aveva sostanzialmente ragione. Qui stiamo parlando di una persona che ormai tende agli 80 anni, che va con le minorenni e con persone di Scusi Cristian, però va con le minorenni, siccome andare con le minorenni magari non consenzienti è anche un reato, comunque, insomma, non si può dire così allegramente. Andare con le minorenni finora non è provato, diciamo, che sia avuto rapporti sessuali con minorenni. Abbia pazienza, Cristian, va con le minorenni, non è che uno può dire quello va con le minorenni. Oggi ho letto la deposizione, l'avete letta tutti, di riportata dai giornali, di una escort, una tale Nadia, una tale Nadia Macri, la quale dice: ho avuto dei rapporti sessuali col ministro Brunetta, il quale nega naturalmente in maniera drastica, e mi ha dato 300 euro delle cose in regalo. Lui nega. Ora, uno come si può difendere da queste cose qui? Cioè, non è semplice. Vabbè, diciamo che sono un simil mago Telma e mi aspetto che tra poco verrà fuori che Ruby, che se non erro ha compiuto 18 anni l'altro giorno, ha avuto rapporti sessuali con... Ma ho capito, l'ha negato non so da dove salta fuori. No, Cristian, fino adesso l'ha negato, poi siccome le dichiarazioni... Chi l'ha negato? Ruby. Ah, vabbè, sì. Ho capito, chi dovrebbe... scrivere un libro, e chi dovrebbe dirlo, scusi? Chi dovrebbe dirlo? Certo. No, pensavo che intendesse Berlusconi che l'ha negato. No, Berlusconi certo che l'ha negato, ma non hanno avuto nemmeno bisogno di negarlo. Va bene, Cristian, grazie. Alberto da Brescia, buonasera. Alberto? Sì, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera, io volevo dire la mia riguardo al discorso di Berlusconi. Sì. Cioè, un po' in contrasto con lei, che se mi è simpaticissimo, ascolto sempre la vostra trasmissione. Sì. Se c'è l'orgoglio di chi vendola di professarsi gay, perché non ci deve essere l'orgoglio e la libertà di Berlusconi e di noi altri e dire che non lo siamo? Però mi scusi, Alberto, è un ragionamento un po' perverso questo qua. A parte che la questione dell'orgoglio gay è venuta fuori perché oggettivamente c'erano delle discriminazioni molto forti anche nel mondo occidentale nei confronti del mondo gay. L'orgoglio etero è una stronzata, me lo lasci dire. Che cosa c'entra l'orgoglio etero? Perché io non posso, cioè, voi avete demonizzato una persona che dice: io non sono gay, io non lo voglio essere, non mi interessa, a me piacciono le donne. Lo avete contestato con... No, ma io non è che contesto uno che dice, si figuri uno che dice: mi piacciono le donne. Uno può dire semplicemente: mi piacciono le donne, non so perché devo aggiungere non sono gay. Che vuol dire? Cioè, non... E poi una cosa è dirlo in privato, una cosa è dirla di fronte a telecamere, a tutto il mondo. Abbia pazienza, Alberto. Cioè, queste cose... È una cosa privata, quindi considero che... Ma non è una cosa privata, una volta che uno lo dice davanti a una... È una domanda privata di una cosa che uno fa privatamente. Ma non è quando uno fa un'affermazione in pubblico, non rimane privata. Ma è una cosa privata sua. È logico. Come è privata sua? Chiunque si chieda: lei preferisce le donne o gli uomini? Sì, ma è lo stesso. Scusi, Alberto, mi lasci dire una cosa. Lo stesso fatto che uno faccia di questa roba qui una sorta di proclama, la cosa viene fuori dal privato e diventa un fatto pubblico. Cioè, su questo non ci sono dubbi. Cioè, io posso dentro di me, e non lo penso, posso anche fare un ragionamento, Parenzo. Beh, sì, vorrei avere un nipotino nella mia vita. Mi piacerebbe tanto avere un nipote. Cioè, ognuno di noi può fare questo ragionamento, certo, ma una volta che tu lo dichiari, e soprattutto se sei un politico lo dichiari, è lì la differenza, capito? Cioè, certo, io viene fagocitato, diventa tema di discussione, diventi simbolo di una battaglia, è ovvio che è così. Cioè, io nel mio privato posso anche pensare: beh, sì, mi piacerebbe quando mia figlia sarà grande, grande che mi dia un nipotino. Vabbè, insomma, ma io poi sono particolare, non faccio nemmeno questo ragionamento, però posso capire chi fa questo ragionamento. Ma lo faccio, diciamo, a letto mentre dormo, anzi prima di dormire, forse anche nei sogni lo faccio, non lo so, comunque sul divano, a tavola, mentre, non lo so, se lo dico alla radio, bah, insomma, mi piacerebbe... sai che vi dico, mi piacerebbe che mia figlia avesse relazioni eterosessuali, perché voglio diventare nonno e meglio che abbia relazioni eterosessuali che relazioni omosessuali. Beh, questa cosa qui esce dall'ambito privato e diventa una questione di dibattito pubblico, è una posizione inevitabilmente. Se poi aggiungiamo che la Santanchè ha detto anche non voglio che mia figlia abbia problemi, oggettivamente cioè, secondo me è questa frase che crea il problema, o no? Però siamo sinceri, se uno io non ripeto, io ho un figlio maschio e una femmina, io amo i miei figli, non amo la loro sessualità, adoro i miei figli, li adorerò sempre, sia che siano etero che siano. Sì, ma questo non è in discussione, certo. Dunque, perfetto, però logicamente alla domanda uno risponde la cosa migliore per i figli, anche perché proprio per questo motivo i gay purtroppo sono discriminati. Ma non è vero, tra l'altro, ma molto molto meno di quello uno può considerare, è proprio questo atteggiamento che li discrimina invece. Non lo so, lei può andare a viaggiare da Roma in giù. Beh, questo è un altro discorso, certo che ci siano dei pregiudizi in alcune parti d'Italia, non c'è dubbio, però ripeto, dire preferisco perché così hanno meno problemi è una frase discriminatoria, nessuno me lo toglie dalla testa e nessuno mi può provare che non sia così. Probabilmente per lei è così, sicuramente non lo è anche così, però ripeto, io non discrimino nessuno assolutamente, anzi come dicevo prima, io ho anche degli amici che lo sono, amici e amici. Sì, però questa cosa degli amici l'ho ascoltata tante volte, ho tanti amici gay. Vuole, no, ma lo so. Negri, amici ebrei, sì, però Alberto, lo sa che mi ricorda questa frase qua, che lei sta dicendo, ho tanti amici, eccetera. Quando uno dice, sì, a me i gay non mi danno fastidio, basta che, cioè, io non ho nulla contro i gay, basta che non mi diano fastidio, insomma, un po'. No, assolutamente. No, non dico che. Allora, lei posso fare una battuta ridendo, cioè, senso, non la prendete a male. No, no, per carità. No, è una battuta, logicamente. Io posso adorare i gay, io li adoro i gay, perché più gay ci sono, più donne per me ci sono. Vabbè Alberto, questa è una stupidaggine grossa come una casa, non è una battuta, è una stronzata, su, grazie Alberto, 30 secondi, aspetta, torniamo subito. Qua. 30 secondi. Ruby Kaiser Chiefs, consigliata da molti ascoltatori, recuperata a tempo di record dalla nostra redazione, 1947 800 24 00 24, Piero da Savona. Oh, buonasera. Buonasera, dica. Io parlerei più volentieri di questioni tipo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicazione della 626, però vabbè. È meglio cambiare programma allora. Infatti, se per questo. Purtroppo non se ne parla neanche in altri programmi. No, ma da noi se ne parla, nella programmazione di Radio 24 se ne parla. Vabbè, se vuole le consiglio qualche programma. Un po' pochino, vabbè. Vabbè, comunque. Comunque, vabbè, rientro nella discussione che va per la maggiore adesso, è così. Rientrerò nella categoria di ascoltatori che citava prima Castelli, ma tanto io non sono uno permaloso. No, e... in che senso nella categoria che citava prima Castelli? Di degli ascoltatori che... No, mica la sto mandando a quel paese, Piero. Sto dicendo... Io... metto le mani avanti, ma... Ah, ripeto, per quello che adesso ci sta per dire? Esatto. Se lei non lo dice, come faccio? E poi non ne parliamo, Parenzo. La prima è una curiosità, come si dice, un basciatore non porta pena. Io ho telefonato a una signora che diceva, se non ricordo male, no? Sì. Che quella che lei ha un po' preso in giro, diciamo, che un famoso psichiatra di sua conoscenza le aveva riferito dell'esistenza di una lobby di psichiatri omosessuali che imponeva i suoi diktat alla scienza ufficiale, giusto? Sì, in modo che si negasse che l'omosessualità è una malattia. Sì. Bon. Combinazione, proprio un paio di settimane fa parlavo con un mio amico, no? Che lui per motivi di lavoro ogni tanto è a contatto con queste figure professionali, no? È una psichiatra, non famosa, una normale psichiatra, no? Con cui era venuto anche in confidenza, gli ha detto, senza parlare esplicitamente di lobby, no? Comunque praticamente ha detto la stessa cosa di quella signora, che questa cosa si sa, ma non si può dire per motivi politici di opportunità, ha detto, tra l'altro te li dico a te, ovviamente se faccio un discorso pubblico, scordati che faccio questa formazione. Tra l'altro mio amico mi ha detto che questa dottoressa era pure di sinistra, per quel che può contare. Sì, però detto... mi scusi Piero se la interrompo, non la sto mandando a quel paese, però francamente queste cose del relato mi ha detto un mio amico che ha parlato con una psicoterapeuta la quale gli avrebbe detto che essere gay è una malattia, però non si può dire, ma, francamente, cioè, di che stiamo parlando? Ma non è una cosa a mio cugino e non lo so, mi sembra tutta una cosa mi dica quello che pensa lei, non quello che le hanno riferito, mi dica quello che pensa Piero. Mi dica quello che pensa lei, così facciamo prima, quello che dice la scienza a me interessa poco, perché la scienza sappiamo bene che, perché non si tratta qua di matematica, di formule, sono argomenti abbastanza opinabili, poi è condizionata al potere politico e economico e quindi è facilmente ricattabile, che ti annulla i finanziamenti, vabbè, poi secondo me, l'omosessualità è una deviazione, Una deviazione, che vuol dire una deviazione? È una cosa non normale. Una cosa non normale. Adesso dici cosa vuol dire la norma, qua non si finisce più. No, ho capito, una cosa non normale, Piero. Quando uno dice una cosa non normale, si mette già in una situazione. Sì, ma io voglio arrivare poi adesso alla seconda cosa, in maniera rapida, sì. Nel senso che prendiamo la dichiarazione di Berlusconi che ha fatto. Sì. Ho una bassissima opinione di tutti i politici italiani, sono lontano alle luci dai loro. Va bene, ma qui quindi non voglio difendere e prendere assolutamente difesa. Però quando ha detto quella frase ieri, no, meglio andare dietro alle belle ragazze che essere gay. Sì. Adesso, mettiamo che Vendola, no, che mi pare lui ha esplicitamente fatto outing, come si dice. Sì, coming out. Sì. Mettiamo che lui dicesse una frase speculare, no, preferisco andare dietro un bel ragazzo che. Sì, ma non lo dice, questo è il punto. Ok, non lo dice, ma se lo dicesse a me che sono eterosessuale, non me ne fregherebbe un tubo. Me lo metto niente, dall'altro 10. Sì, ma ho capito, ma che vuol dire? Lei ragiona per ipotesi. Vendola, per fortuna non fa dichiarazioni del genere. Io non ho grande simpatia per le posizioni politiche di Vendola, però Vendola non fa questo tipo di dichiarazioni, anzi, della propria omosessualità parla, ma sì, ma non in maniera costante. Ma bisognerebbe essere tutti un po' meno permalosi. Se lo facesse. Ma non è questione di permalosità, ma chi è permaloso? Scusi. Ma no, nel senso che adesso per le categorie gay, adesso non so se tutti comunque già. Insomma, voglio capire, questa frase di Berlusconi le è piaciuta, non le è piaciuta? No, a me l'ha lasciato del tutto indifferente. Del tutto indifferente. Mi piacerebbe che si interessasse più dei. Ho capito. Secondo lei troppe discussioni intorno a questa frase di Berlusconi? Ma che sono discussioni da par, che uno fa. Da par. Infatti, qui un po'. Ma noi non mi faccio due risate, io non mi faccio due risate per niente, ce le facciamo ogni tanto, certo, non su questa frase qui. Piero, un attimo solo, 1951 800 24 00 24, Parenzo, sei tornato? Sì. Sì, ci sono. È con noi l'avvocato Carlo Taormina, buonasera. Buonasera. Come sta, avvocato Taormina? Benissimo. Che è il fondatore della Lega Italia, come si chiama? Lega Italia con Tancredi Cimino. Chi è il signor Cimino, che non conosco? Ma Cimino è uno dei nostri iscritti. Ah, sì. Niente di più e niente di meno. Un ex senatore. Sta con noi. Sì. Senta, Taormina, lei questa discussione sui gay è inutile affrontarla, no? La frase di Berlusconi che frase è? Felice, infelice, la frase da macio, è stata interpretata in mille modi. È una frase di Berlusconi. È una frase da guitto, come dice Dario Fo. Oggi da guitto. Il personaggio è diventato... tale, quindi bisogna. Lei dice che tempo fa non l'avrebbe detta. Beh, insomma, ai tempi della fondazione di Forza Italia Berlusconi era molto più serio, molto più compenetrato con il ruolo che sarebbe andato poi ad assumere. Pian piano il degrado si è impadronito del personaggio e del partito. Che sono stati gli anni, la vecchiaia, cosa? Ma guardi, soprattutto si è contornato di persone di sesso maschile e di sesso femminile a livello di amicizie, a livello di consiglieri che lo hanno piano piano portato verso questa condizione, dal quale non è più in grado di ormai di uscire. Ma i suoi consiglieri dal punto di vista, diciamo, dei gusti sessuali, chi sono secondo lei oggi? Ma guardi, là c'è di tutto, sa, le posso dire che c'è di tutto, cioè? Perché le cose di cui si parla oggi da Noemi in poi sono cose che, insomma, per me sono assolutamente normali, perché appartenevano al novero delle situazioni assolutamente vissute tutti i giorni. Purtroppo c'era questa... Lei mi sta dicendo che però è cambiato qualcosa da prima. Questa immoralità... No, l'immoralità dilagante c'è, da un certo momento in poi c'è sempre stata. Oggi è cambiato che non c'è più nemmeno la discrezione, cioè c'è quasi l'ostentazione di questa condizione da ma lei quando parla di moralità, questa condizione da stupratori, e che insomma, cioè, no. Stupratori in senso figurato? No. Beh, in senso figurato, certo. Ma quando lei parla di moralità, che vuol dire? Che secondo lei è immorale che il Presidente del Consiglio faccia un festino con 20-30 ragazze? Beh, no, io penso che sia immorale, scusi la mia vecchiezza, ma per me sono cose certamente immorali. Poi lo diventano ancora di più se se ne fa ostentazione, addirittura se ne fanno spot elettorali, perché l'altro giorno il Presidente del Consiglio ha dichiarato che una escort al giorno toglie Berlusconi di torno e tre invece lo fanno rimanere sempre lì, lo fanno rimanere sempre lì. Cioè, è la gente. No, questa non l'ho sentita. Parenzo, tu l'hai sentita questa qua? No, non l'ho mai sentita. Io non l'ho mai sentita. Tu l'hai sentita lei? L'ho sentita io, l'ha fatta in una specie di conferenza stampa ieri, è stata riportata anche da Rai 3, e lui appunto ha detto questa frase: un escort al giorno toglie Berlusconi di torno, tre escort al dì lo fanno rimanere lì. Questa è stata una grandissima boato di questo popolo della libertà che devo controllare intorno. Questa cosa qua non... ma guardi, io le dico le cose che ho sentito senta, ma però voglio dire, quando è che cambia, cioè torniamo alla domanda che le ho fatto: i consiglieri da questo punto di vista di Berlusconi, per quello che lei può sapere essendo stato vicino a Berlusconi, chi sono? Come si dice, l'elemora, fede, questi qua, i consiglieri? No, ma lei per consiglieri di che cosa mi dica? Cioè, che consiglieri cosa? Intendo, adesso le dico una parola un po' brutta, vita dissoluta. Esatto, sì. Ecco, beh, guardi, innanzitutto, queste confessioni ci sono state sempre. Io, insomma, lo posso dire perché... Cioè, i festini li ha sempre fatti? Ma insomma, questo tipo di professione c'è sempre stato. Veronica aveva svolto un ruolo... Lei ha mai partecipato, no? Partecipare no. Sapevo che accadevano, mi è capitato anche di poter assistere a situazioni iniziali, le quali poi mi consigliavano di allontanarmi. Situazioni iniziali, che vuol dire? Vabbè, andavi a una festa alla Certosa, poi a un certo punto capivi che l'andamento poteva essere diverso dalle tre in poi, dalle due e mezza a tre in poi. E perché non rimaneva lei? Perché non rimaneva lei? Perché non fa parte del mio costume. Torno tra un attimo dopo la pubblicità, perché mica volevo dire che doveva rimanere per forza. 800 24 00 24. Obama, lavorerò con i repubblicani. Berlusconi Fini non è stato espulso, si è autoescluso. Vertice PDL, sicurezza, il Copasir convoca il Premier, maggioranza no a strumentalizzazioni. Pacco bomba per Berlusconi, Maroni, forse legami tra anarchici greci e italiani. Atene sospende le spedizioni aeree per 48 ore. Susanna Camusso alla guida della CGIL, al TG1 dice il lavoro prima di tutto difficile, ma proveremo a recuperare con CISL e WILL. Parigi, bimbo di 18 mesi cade dal settimo piano, rimbalza sulla tenda di un bar e viene preso al volo da un passante. È salvo. Collari elettrici per cani, una vera e propria tortura per non farli abbaiare. Ne è vietato l'uso, ma non la vendita. A Sanremo, Bella Ciao e Giovinezza potrebbero essere cantate durante la serata che faccia discutere per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Intanto Gianni Morandi svela che al festival i cantanti in gara saranno 14. Da Ruby a Nadia Macri, sulle pagine dei giornali ovunque si parla di queste cose, ne parliamo anche noi qui alla Zanzara con Davide Parenzo, sempre collegato dal centro di Roma, non so dove. Parenzo, dove ti trovi esattamente? No, ora mi trovo davanti alla camera perché sono andato a fare un sopralluogo con l'uomo dei sondaggi che ho spedito su un palazzo per tornare giù. Che è il signor Crespi? Il signor Michael Moore, quello Michael Moore, molto sì, grosso, scusami, Michael Moore italiano. Molto grasso, molto grasso, detto, grosso, Michael Moore italiano. E vabbè, sei dalle parti. Torna su. Tra 5 minuti. Bene, e l'avvocato Carlo Taormina, ex Forza Italia, è stato anche l'avvocato di Berlusconi. Radicale, è stato anche radicale. Radicale, sì, certamente. Oggi ha fondato la Lega Italia insieme ad un ex senatore. E insomma, magari ha voglia di tornare a fare politica da Urmina, anche se non si smette mai di fare politica in realtà, no? No, no, non si smette mai. E poi la Lega Italia è nata 2 anni e mezzo fa, quindi non è... Però siete un po' pochini, mi sembra, ancora. Invece noi siamo tanti, e vedrà che il 13 novembre al Salone Margherita faremo questa assemblea generale. Ma con chi state? Con nessuno? Da solo? No, noi non siamo con nessuno, guardi, non siamo con nessuno. Questa è la posizione ferma e inamovibile. Molti sono convinti, Parenzo, che l'avvocato Taormina, quando viene interpellato, dica delle cose di Berlusconi perché ha rotto con Berlusconi. Tu ci credi a questa cosa, cioè che abbia un po' di acredine nei confronti di Berlusconi? No, ma potrebbe essere una componente umana normale, ma conosco da tanti anni l'avvocato Taormina e so che ha sempre, per usare un'espressione fine, ha sempre fatto quello che la sua testa gli ha dettato, quindi è sempre stato un rompicoglioni di professione. Questo gli dà merito, perché in politica spero che non si offenda, ma insomma è un grande rompicoglione, una persona indipendente che ha sempre agito con la propria testa, non si è fatto mai dire da nessuno cosa doveva fare, cosa doveva dire, per cui ha pagato anche dei prezzi per queste sue, sua libertà di pensiero. Lei, Taormina, ha dichiarato oggi di essere morigerato, dunque quando c'erano queste feste se ne andava, ma che succedeva dopo a queste feste? Non è che me ne andavo quando c'erano le feste, quando capivo che la situazione evolveva in determinate direzioni me ne andavo, ma insomma... Ma questo da quando? La cosa più importante è che non ci andavo proprio. Poteva capitare occasionalmente che si verificassero situazioni borderline, io naturalmente non trovavo la scusa per andare. Ma che vuol dire basta. Borderline? Cioè, qual era il segnale? Un po' di musica soffusa? I segnali... Luci soffuse, musica... Sì, ma insomma, sai, le presenze di signorine. C'era Emilio Fede, chi c'era? Truppe brasiliane che erano come truppe brasiliane addirittura. Insomma, c'erano i corpi c'era di ballo brasiliani forse, Lula. Alla Certosa, per cui insomma Ci siamo capiti. Senta, vabbè. Ma la cosa che voglio capire è stavamo parlando delle di persone. Sì, adesso andiamo su Nadia Magri. Le persone cui Berlusconi si appoggia, diciamo, per organizzare queste serate, chi sono, secondo quello ma che guardi, lei possa dire? I servi sono tanti, pure spesso altolocati. Per esempio? Quindi non pensi che si tratti soltanto dei peones che poi lei ritrova in Parlamento, Camera o Senato, ma no, si tratta anche di personalità importanti. Lei tenga presente che più piaceri si fanno e più si sale nella scala dell'occupazione delle istituzioni, che poi noi paghiamo, insomma, no? I ministri paghiamo noi, i deputati. Ho capito, ma chi è un compagno, diciamo, di feste di Berlusconi da questo punto di vista? Ma io non posso. Sennò si passano dei guai, vabbè. Certo. Sì, appunto, però insomma sono tanti e pochi allo stesso tempo, perché sono, diciamo, le persone più strettamente a contatto, anche molto insospettabili. È molto insospettabile. Molto insospettabile. Non stiamo parlando degli stessi nomi che abbiamo letto, cioè Lele More, Emilio Fede, no, non c'entrano niente. No, dico, ma non pensi che poi si tratti soltanto di donne, perché ci sono anche gusti diversi, quindi insomma c'è. Come? Ce n'è di tutto, insomma. Ecco, cioè, queste feste c'erano anche cose omosessuali. Ma le feste sono, come dire, bipartisan, ecco. A voile et à vapeur, come si dice in francese. Esatto, a voile et à vapeur. Ma questo sarebbe niente se si facesse una politica seria, sarebbe, perché poi questa immoralità naturalmente incide anche sul taglio della politica. Sì, sarebbe una cosa. Vabbè, se ci fosse la politica, politica. No, se appunto facessero politica questi stessi personaggi che pensano invece a preparare festini e a rendere felice il presidente. Adesso andiamo su Nadia Macri, sulla vicenda Macri, con molta, come dire, accortezza, perché oggi queste dichiarazioni che abbiamo letto su molti giornali, in particolare le carte pubblicate dal Corriere della Sera, sono scottanti, perché insomma, sa, dichiarare cose del genere, sono fatta pagare da questo, da quell'altro, Berlusconi, Brunetta, eccetera, c'è gente che ha minacciato querele. Cioè... Io scusi se la interrompo, ma io sono intervenuto, non volevo farlo, ma l'ho dovuto ma fare. Brunetta l'ha querelata oggi, ha annunciato querele nei suoi confronti, no? No, ma non può querelare, che c'è da querelare, figuriamoci. Anzi, se è buono, perché sennò poi ci viene pure il resto. Cioè, voglio dire... In che senso viene il resto, mi scusi? Beh, vabbè, insomma, è chiaro che io ho detto l'essenziale, perché vede, la ragione è stata questa. Mentre Brunetta, quando ha parlato dell'avvocato al quale avrebbe presentato la Nadia Macri, sì, ha parlato di un matrimonialista, io faccio il penalista da una vita, sì, e quindi evidentemente... Ma lei l'ha presentata pure a qualcun altro? Non ha voluto fare il mio nome, ma Nadia Macri, molto più correttamente, ai magistrati di Palermo ha detto mi ha portato dal professor Taormina, quindi è stata chiarissima. E poi quando io apprendo che per la prestazione sessuale, secondo la dichiarazione di Nadia Macri, Brunetta gli avrebbe dato solo 300 euro, è vero che è piccolo e quindi... No, fermi, che vuol dire piccolo? No, voglio dire, però è quasi mi sono sentito come essere diventato un pezzo del prezzo pagato, perché è come se la mia prestazione professionale fosse servita a Brunetta per aggiungere i 300 euro quello che ho capito mancava. Questo naturalmente dando per scontato che questa cosa sia avvenuta, cosa che Brunetta nega in maniera che cosa nega Brunetta? Nega naturalmente che di aver conosciuto da quel punto di vista quella ragazza là. Ah vabbè, questo non lo posso sapere nemmeno io. Appunto, lei si è sentito coinvolto da quella frase di Brunetta e ha dovuto spiegare dunque il contesto in cui ha conosciuto. Sembrerebbe quasi che fossi stato in qualche modo coinvolto nel partecipe di quello che dice la signora Macri, che naturalmente è smentito da Brunetta. Abbiamo la pubblicità e torniamo subito. Eccoci, Parenzo, ti piace questa canzone? Molto carina, molto. Kaiser Chiefs, Ruby Ruby, se non sbaglio, no? Pronuncia al solito, insomma, claudicante, però insomma meglio del meglio che in altre occasioni. 20 11 800 24 00 24, fra poco, cari ascoltatori, riprendiamo con voi. Taormina, io partiamo dall'inizio. La signora Nadia Macri dice: Brunetta mi è stata presentata 4 anni fa nel corso di un convegno, in lacrime mi espose le sue difficoltà, la conoscenza si è esaurita in quell'unica occasione, per i suoi problemi gli indicai l'avvocato Taormina, anzi credo che poi questa non l'abbia indicato direttamente in questa intervista Brunetta. Esatto, non l'ho più rivista né sentita. È vero o non è vero quello che dice Brunetta? Dunque, è vero che Brunetta mi ha portato la Nadia Macri in studio, che era preoccupata per una delicatissima vicenda giudiziaria a Modena, sì, che la riguardava e sulla quale non voglio entrare per correttezza. E naturalmente io vidi il grandissimo interesse che aveva Brunetta per questa situazione. Si trattava di una ragazza che si presentava non bene ma benissimo, che aveva anche un fare molto arrembante, per così dire, e insomma ho trovato un Brunetta molto preso, molto compenetrato nella situazione, e quindi mi misi a disposizione perché me lo chiedeva Brunetta, in sostanza, che poi me l'ha chiesto successivamente, è tornato altre volte con questa ragazza, mi ha subissato di telefonate per sapere quello come stavano andando le cose. Quindi questo perché lei dice, dicendo che le è sembrato un interessamento, era molto interessata, però fa nascere dei sospetti con questa frase che lei dice, avvocato Taormina. Io ho fatto le mie valutazioni, a me sembrava che Brunetta in quel momento era un povero deputato europeo. Povero deputato europeo, relegato in una stanza di Via dell'Umiltà, perché in quel momento non era il momento migliore della sua esistenza. Come lei sa, nel 2008 voleva candidarsi nel 2006 alle politiche e Berlusconi non lo candidò. Quindi insomma viveva un momento di oscurità e quindi venne da me, mi fece questa, mi chiese questa cortesia. Io, siccome siamo colleghi universitari, lui insegna a economia e politica, io a giurisprudenza, l'ho fatto per questo complesso di situazioni. Però insomma, ma che cosa le disse? Come gliela presentò questa ragazza? Come gliela presentò? In che modo gliela presentò? Una sua carissima amica, un angelo che ha bisogno della tua assistenza. Sì, della cosa tua... possibile, cioè nel senso non necessariamente la cosa implica una relazione di altro tipo, no? Di tipo sessuale, eccetera. Insomma, la situazione a me, guardando dall'esterno, da persona che ha qualche dimestichezza con diciamo con i comportamenti umani là, a me è sembrato un interessamento molto molto sentito, molto, vabbè, ma è molto di grande vicinanza, ecco. Lei crede alle, e poi insomma la sua conoscenza con questa signora è continuata con questa... per mesi, perché io mi interessai per qualche mese di questa questione, da quando non ebbi un colloquio con un magistrato della procura di Modena, dove pendeva il processo, che mi raccontò, si trattava di un bambino, del figlio di questa ragazza, sì, che le era stato tolto per ragioni varie, sì. E mi disse, io però non sapevo quale fosse la situazione reale, questo magistrato mi disse: guardi che le cose stanno in questo modo, in quest'altro modo, in quest'altro modo ancora. Io parlai con lui e gli dissi: guarda Renato, che la situazione diciamo è difficilmente governabile, dico, anzi, vedi un po' anche di precauto, perché mi pare che sia un complesso di dati che mi sono stati forniti che non tranquillizzano sulla persona. Ecco, poi, ma in che senso? Anche... cioè la ragazza non controllabile, beh, cioè, sì, per la vita che faceva, aveva grandi difficoltà che erano sfociate nell'intervento giudiziario, insomma. Ecco, questo... Senta, ma lei ha conosciuto anche quest'altra, Perla Genovesi, che... la Genovesi, la Perla. Come? Avvocato? Aspetti che non la sentiamo più, mi sente? No, ma adesso recuperiamo la telefonata, 20:15. Sì, il professor Tormini è sparito un attimo, adesso lo riprendiamo. Parenzo, tu che ne dici di questa storia? Però io vedi le cose, le impressioni, avevo avuto l'impressione che... No, insomma, vabbè, ma Tormini è genere abbastanza... Cioè, ho capito, però siccome sono delle cose, incontro, siccome no? Sono delle cose molto delicate... Esatto. Ma infatti è questo che voglio dirti io, cioè il rischio è che adesso si alzi una escort qualunque, esatto, o qualsiasi... cioè, a dire qualsiasi cosa, tra l'altro questi interrogatori dovrebbero essere segretati... In teoria, invece abbiamo. E questa è l'altra grande questione. È tutto spiattellato sui giornali. Riprendiamo tra un attimo dopo il traffico. Traffico. Siamo di nuovo qui con la Zanzara, 20:18. Stiamo recuperando le linee con tutti. Sono cadute tutte le telefonate. No, anzi, Parenzo è recuperato. Eccolo qui. Abbiamo recuperato Parenzo, fra poco recuperiamo, anzi no, c'è anche l'avvocato Tormina. Allora, dove eravamo rimasti? Sempre 800 24 00 24. Eravamo rimasti a Perla Genovesi, sì. Dunque, esatto, lei ha conosciuto, sì, anche Perla Genovesi, che è quella che ha detto... Perla... Quindi, sì, le due erano amiche? Le due erano amiche, molto le amiche. Due erano amiche, la Perla era la factotum di Enrico Pianetta, che era il senatore del mio collegio elettorale, esatto, a Milano. E che vita facevano queste ragazze? Che vita facevano queste ragazze? Che ne so, me lo dica lei. Facevano la vita che hanno dichiarato loro stesse di aver, cioè, fatto. L'escort, no, una, forse ma, insomma, tutte e due. Quello che sembra, cioè, io guardi, non ho visto mai nessuno andare a letto con un altro, per cui non le posso dire niente. Appunto. Le posso dire che le consapevolezze che mi provenivano da altre fonti di informazione assolutamente chiare davano per certa l'appartenenza al grande giro che c'è sempre stato e che... Il grande giro intorno a chi? Ma il grande giro intorno al partito e al suo presidente. D'altra parte il presidente l'ha dichiarato, scusi, l'ha detto che lui... 3 al D lo fanno rimanere ma lì. Ma no, ma non è quella, lei si sbaglia su questa cosa qua, perché abbiamo recuperato quella dichiarazione, non ha detto escort, credo che sia una cosa sulle critiche, 3 critiche al D, una cosa no, di questo tipo. No, guardi, l'idea, vabbè, la cosa poi verificheremo. Senta, la controlli, vedrà che mi darà ragione. Ma la questione della segretazione di queste carte, insomma, che vengano subito spiattellate, insomma, lei per anni si è battuto pure contro queste cose, ma insomma, non è un po' strano? Contro che cosa mi sono battuto? No, anche contro la fuga di notizie, la divulgazione di notizie. No, io sono assolutamente favorevole a tutte le fughe di notizie, l'ho sempre detto, c'è David Parenzo che noi abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, io sono favorevole a tutte, quante cose non avremmo saputo come quelle che stiamo sapendo. Anni fa lei non la pensava così, ecco. Anni fa non la pensava, anni fa lei non la pensava non è così, vero, dormi. Non è assolutamente vero, no. Controlli la mia però la è mia vero che vedono i diritti dell'indagato, vabbè, al di là di quello che lei pensava prima o dopo, è vero che in questo caso sono uscite fuori le carte con gli interrogatori di questa signora Magri, e sono carte che devono rimanere in teoria segretate o no? Ma guardi, devono rimanere segretate perché fanno parte di un segmento del procedimento penale che certamente ne imponeva la segretazione. Chi le ha pubblicizzate ha commesso certamente un reato, ma chi le ha pubblicate ha fatto solo bene. Vabbè, questo poi è una discussione. È sempre stato a favore della libertà di stampa, sì, questo è vero. Taormina, questo lo sento. Insomma, lei crede, Taormina, davvero che quello che racconta questa signora Macri, che lei ha conosciuto, siccome la, io chiedo perché lei l'ha conosciuta. Io penso che sia vero. Tutto vero quello che c'è scritto, quello che ha detto ai magistrati, tutto vero. Io penso che sia vero. Cioè, sia i rapporti sessuali, eccetera, eccetera, tutto vero. Vabbè. Ma io penso che poi alla fine Berlusconi non, nemmeno lo negherà, perché poi gli fa pure piacere sapere di essere così potente, così, così capace, così amatore. È una sua, diciamo, prerogativa personale, cioè lui ha proprio questa. Lei gli parla, se sta parlando delle elezioni di mezzo termine in America, lui improvvisamente le fa riferimento a qualche bella gnocca che vorrebbe avere in quel momento. Senta, però dunque non si stupisce nemmeno del fatto che una ballerina brasiliana chiami Berlusconi durante la notte per avvisarla che c'è Ruby in questura, insomma, immagino che lei non. No, guardi, non si stupisca. Le ballerine brasiliane hanno imperversato a Villa Certosa per anni, quindi non si stupisce. Le ho viste io tutte le sere che ci andavo. Dunque non è un problema di sicurezza, cioè il fatto che una persona abbia il telefonino di Berlusconi, chiami il caposcorta, glielo passi, eccetera. Ma no, ma lei Berlusconi, quando voleva parlare con Berlusconi, come faceva? Era complicato? Per parlare con Berlusconi? No, perché? Qual è il problema? No, dico, siccome per quando certe... quando non vuole parlare con qualcuno è complicatissimo, ma quando questa sua volontà, non volontà, non esiste, non c'è nessun problema. Telefonini e telefononi sono tutti pronti. Va bene, avvocato Taormina, buona serata, grazie. Buona serata a voi. 20 e 23 800 24 00 24. Ascoltatori a Iosa, dove ti trovi, Parenzo? Che ti abbiamo dovuto rincorrere per tutta Roma. Sono dovuto rientrare a un telefono fisso perché il solito problema della batteria. Ti compro un cellulare con un secondo numero, una seconda scheda, un altro cellulare, papà. Così fai il cambio. Grazie, papà. Poniamo fine a questa sorta di tortura. Però è più bello, si crea anche quella suspense necessaria. Sì, Parenzo, un po', è vero anche questo. Però, in una camera da letto. Signora Parenzo, compri al suo gentile consorte, un secondo cellulare, così lo può controllare meglio, lo compra lei, dunque non è un secondo cellulare di quelli che si usano di solito. Certo. Mauro da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Io prendo le difese della Santanchè perché ha parlato da mamma. Ha parlato da mamma. Ha parlato da mamma, non ha parlato da politica. Lei ha parlato da mamma perché pensa di proteggere i figli da questo mondo crudele con... Ma proteggi i figli da che cosa? Il naso dappertutto, da se stesso. Tra le lenzuola, sotto le lenzuola, nei bagni. Vabbè, chi è che Parenzo, no? No, Mauro. Adesso recuperiamo anche quest'altra telefonata, sempre da Milano. Federico, buonasera. Eccomi, buonasera. Buonasera, dica. Allora, commenti vari. Uno sul perché Berlusconi ieri ha detto quella frase, che mi è parsa assolutamente incredibile, soprattutto da un uomo di comunicazione, lui che non poteva che aspettarsi la canea che poi è inevitabilmente arrivata. E cioè che secondo me ieri Berlusconi ha aperto la campagna elettorale. Boh, cioè io ho dei dubbi su questo. Ma nel senso che anche il riferimento al fatto di dire noi non possiamo permetterci le elezioni, l'uomo dice una cosa e ne ha sempre fatta un'altra. Sì, spesso c'è troppa dietrologia su Berlusconi. Cioè, non dietrologia, in questo caso c'è una corrente di pensiero che sostiene che Berlusconi, prima di dire una parola, mediti in maniera approfondita. Adesso dico questo perché è così. Non è così in realtà. Gli è scappata quella frase perché Berlusconi è fatto così, perché era davanti ad una platea. Questo può anche darsi, che però porta al secondo commento che volevo fare. Sì, mi riferisco alla sua perplessità sul fatto che lui faccia la telefonata direttamente in questura, che lui dia il suo cellulare alle brasiliane, e che l'uomo è un bauscia brianzolo nel senso buono, cioè un po' uno sprovveduto, nel senso la telefonata che lei lascia un po' perplesso, per me non è nient'altro che una forma evoluta di raccomandazione, solo che un politico avveduto l'avrebbe fatta fare al suo segretario particolare, lui piglia il telefono e chiama, cioè il che pensi. A parte che la differenza non è di poco conto. No, sono d'accordo. E poi, ripeto, non si può sfuggire al fatto che c'è un intervento per risolvere una situazione di una 17enne che ha partecipato a delle feste a casa di Berlusconi e che evidentemente Berlusconi vede come un pericolo. Tra l'altro è la stessa Rubi, in una lunghissima intervista ad Oggi, che oggi ho analizzato bene, per carità, ho analizzato per quanto si possa analizzare bene le frasi di questa ragazza, che dice Berlusconi evidentemente aveva paura che io potessi dire delle cose sconvenienti o cose di questo tipo. Ma per quello che si sta, ormai voglio dire, cioè, un pochino ridicolo. Che cos'è ridicolo? È tutto ridicolo. La provvedutezza dell'uomo, secondo me, nasce anche dal fatto che lui, voglio dire, accesso a belle donne ne ha, Mediaset, la televisione. Si cercasse una compagna giovane, bella, una Gregoracci qualsiasi, faccio per dire, una bella ragazza con cui si fidanza, Sarkozy l'ha fatto, ha suscitato le invidie di molti, potrebbe farlo anche lui. Invece poi queste carrettate di donne, cioè, mi pare anche che non diano un'immagine di sprovveduto più che di potente, che è uomo che può ottenere. No, ma quello sì, quello può darsi. Ed è questo che secondo me politicamente lo svantaggia oggi, nel senso che non, da uomo potenzialmente invidiato perché può avere tutto, a uomo che deve ricorrere ai festini con le brasiliane per poter fare quello che, per carità, tutti possono avere piacere di fare, allora, cioè, con giovani sì, e belle donne. L'intervista ad Oggi, no, di Rubi, quando siamo uscite dalla questura mi ha detto che l'aiuto era arrivato da Silvio, questa Michelle o anche la Nicole Minetti. C'è una grande confusione di nomi, Parenzo. Poi me l'ho passato al telefono e lui mi ha detto che non voleva più vedermi. Tuttora non lo capisco. Perché poi ti ha aiutata? Tuttora non lo capisco. In questura avevo fatto il suo nome e lui di aver avuto paura che inventassi chissà che. Questo è. Però invece questa roba delle feste che dice il tuo radioascoltatore, siccome non è così, perché appartiene alla grandeur del presidente. Ti ricordi il vulcano che erutta? Sì. Cioè, lui davvero ha questa idea del posso avere tutto, e potendo avere tutto si fa costruire il vulcano che erutta, sì, e tutte queste belle donne. Dunque? E la musica, no, quindi appartiene proprio alla sua cifra, non è che è cambiato nel corso, no, beh, sì, magari, nel corso degli anni, è il suo modo di vivere anche la sessualità con questa idea di potenza, ma su questo non ci sarebbe nulla di male, c'è anche il vulcano, è divertente magari, no, del, sì, vulcano, certo, che rutta, certo. Il problema è, no, non ti piacerebbe avere il vulcano di, ma come no, sì, è una cosa di un kitsch pazzesco, però è divertente, è cinema, è quell'immaginario che la televisione costruisce e che lui ha saputo costruire. Piccolo problemino è che fino a quando ci porta Putin e fa il Topolánek lì, che è nudo sulla piscina, va bene. Quando questo diventa affare di Stato diventa un problema. Cioè ora tutti sono potenzialmente ricattabili. Sì, non so, ricattabile io non lo so, però certo. Può alzare un escort qualunque e dire l'ho conosciuto, e sì, magari non è vero e sputtanarlo. Sì, sì, questo è il risultato. Il problema, il risultato è questo. Andiamo alla borsa. Ho 16 anni e parlando di aspirazioni per la vita ne ho due molto più fondamentali. E una è il sogno di diventare carabiniera, mentre l'altra invece è di essere padre di famiglia. Caro Parenzo, la voce che hai sentito è quella trasmessa nel telegiornale della 7 pochi minuti fa, ed è la voce di Rubi a un concorso di bellezza, quello dove ci sarebbe stato Emilio Fede, due anni fa. La cosa curiosa è che dice sono egiziana. Ho sentito solo voglio fare il carabiniere. Che sì, voglio fare il carabiniere e la... Ah, è egiziana. Sì, lei dice, chiaramente non è egiziana, però a questo concorso di bellezza dice sono egiziana. C'è una confusione. Sì, no, c'è anche abbastanza, no? Curioso che dopo Berlusconi, come sembra, se ne esca con questa storia. Sì. Anche se lo stesso Berlusconi, come sappiamo, dice che in realtà la cosa gli è stata suggerita dalla stessa Rubi. E poi c'è quel verbale di polizia, quel rapporto ufficiale di cui abbiamo parlato ieri. E dice anche poi voglio fare il carabiniere e voglio questo mettere sempre su famiglia. Questa è l'unica cosa certa, diciamo. Sì, è una costante, chissà perché poi il carabiniere lo ripete anche adesso. Va bene, 2035 800 24 00 24. Dove andiamo? Direi a Milano da Paolo. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Beh, ci sono molte cose da dire, ma comunque ne andiamo soltanto su una. La cosa più fenomenale è sentire un personaggio veramente molto particolare come l'avvocato Taormina, sì, parlare di etica. No, non ha parlato mai di etica Taormina. Non parlare di etico, parlare comunque e saltare fuori nel momento opportuno, con un timing assolutamente perfetto su Berlusconi. L'avvocato Taormina è un personaggio assolutamente molto strano, molto, molto dubbio, e non riesco a capire come mai venga fuori adesso ad aprire i gate del... Però mi scusi Paolo, siccome non è la prima volta che noi chiamiamo il professor Taormina, e non è per fare la cronistoria della vita e delle posizioni politiche assunte dal professor Taormina o dall'avvocato Taormina, per cui potremmo ricordare naturalmente tutta la vicenda di Cogna, altre cose ancora. Non stiamo nemmeno discutendo sulla moralità di una persona, perché sa, su questo si può discutere fino all'infinito, bisogna intendersi sulla parola moralità. Però quello che a me è successo, ecco, con l'avvocato Taormina. Mi racconti, certo, questo è interessante. Molto semplicemente. Innanzitutto, di là della questione, un piccolo inciso, mi fa molto piacere che finalmente non ci siano più gli attacchi sciocchini nei confronti di Cruciani, perché Cruciani è bravissimo, e alla fine della fiera eravamo anche un po' di pescato di sentire tutti gli attacchi a Cruciani. Al di là di questo, finalmente sì, sono finiti. Dall'altra parte, io le racconto solo, io mi ricordo se Taormina tempo dietro, introdotto da in altre maniere, per una questione di natura penale e civile, sì, che coinvolgeva una grossa famiglia, tra l'altro parenti acquisiti, produttori di automobili. Cioè lei ha conosciuto in via professionale il professor Taormina come avvocato. Paolo, mi scusi un attimo, lei ha l'auricolare o è collegato a qualche cosa? Perché sentiamo... No, purtroppo avendo il telefono che sento male, ho il viva voce. Perché viva voce ci arriva in maniera... Allora lo stacco, ecco, se stacca via voce e prende la cornetta, per noi è meglio, perché ci sentiamo un suono bizzarro. Lontano. Sì, lontano un po'. Quello che mi fa piacere raccontare soltanto è questo. Io contattai l'avvocato Taormina attraverso terze persone per prendere in mano questa situazione, che era una situazione niente di straordinario, comunque non coinvolgeva delle cifre straordinarie, c'era un aspetto penale, c'era un aspetto civile, c'erano diverse aspetti. Io abitavo in quel momento nel Principato di Monaco, in quanto lavoravo lì come professore universitario e come imprenditore. Sì. E la prima cosa che l'avvocato Taormina mi chiese fu: ma lei ce li ha i soldi per pagarmi? Non mi pare una cosa strana, però mi scusi. Alla domanda di questo genere io risposi, mi ricordo che rispose all'avvocato Taormina: avvocato, la posso invitare a pranzo e a cena quando lei desidera, se vuole che ci vediamo. La storia dell'avvocato Taormina, in tutti i sensi, in tutte le maniere, sì, in tutti gli aspetti, in ogni posizione, in ogni posizione che lui ha espresso all'esterno, è assolutamente indifendibile, direi difficilmente presentabile. Però mi scusi, allora, questa è una questione, scusi un attimo, Paolo, scusi un attimo. Come si possa mettere l'avvocato Taormina a orologeria a mettersi a parlare di quello di quell'altro? Mi domando, perché non l'ha fatto prima? B, perché non andiamo a parlare dell'avvocato Taormina? Sicuramente ci sarà qualcuno che ha da dire delle cose. No, però mi scusi, Paolo, però se ha qualcuno... Sì, però mi ascolta, o no? Mi sta ascoltando o no? Perché non guardiamo? No, a me di Berlusconi quello che ha fatto non me ne frega assolutamente nulla. Perché non guardiamo? Non pensiamo a quello che succede nella Real Casa torinese, a quello che faceva il senatore a vita Bonanima. Insomma, chi se ne frega, però Paolo, abbia pazienza, perché dobbiamo interessarci a quello che succedeva a casa Agnelli? Qual è il punto? Ma chi se ne frega quello che succedeva a casa Agnelli? Adesso ci interessa quello che succede a casa Berlusconi, abbia pazienza Paolo, questo mi sembra abbastanza normale. Ma io penso che in termini di moralità sia la stessa cosa. Ma io non lo so, non faccio paragoni, opinioni sulla moralità, però due appunti a quello che lei ha detto. Per carità, non è questa la sede, ma lei sul comportamento che ha avuto nella sua vicenda professionale col professor Taormina, con la povera Taormina, è stato un po' generico, perché ci ha detto semplicemente che le ha chiesto se aveva i soldi per pagarlo, cosa mi sembra normale, magari un po' irruento dirlo subito così, questo è nel carattere della povera Taormina. Seconda cosa, io non so come si sia comportato dal punto di vista professionale con le persone che lei conosce, però qui entriamo in un ambito un po' bizzarro. Per quello che riguarda le vicende politiche e professionali dell'avvocato Taormina, certo possiamo discutere all'infinito, è certamente un personaggio molto discusso per prese di posizione, per certi comportamenti eccetera, però qui stiamo semplicemente discutendo delle parole che ha detto. Non è che l'avvocato Taormina se n'è uscito e se ne poteva uscire prima, è venuta fuori la storia di una persona che lui ha conosciuto e ha detto quello che ha detto, poi ne risponderà se è del caso. Sono d'accordo con lei, Cruciani. Mi domando come mai all'orologeria spunta fuori adesso. Ma no, ma è spuntato fuori perché c'è stato questa persona, questa Nadia Macri, che ha parlato con i magistrati di Palermo, perché è venuta fuori una conoscenza attraverso il ministro Brunetta, e lui ha detto delle cose. Poteva anche non dirle, certamente, evidentemente gli andava di dirle perché ha dei conti in sospeso o perché gli tirava in quel modo, non lo so, ci sono tanti motivi, le ha dette. L'importante è, al di là dei motivi per cui le ha dette, che possono essere anche interessanti, capire se queste cose sono vere, non vere, eccetera. Comunque ripeto, io quando Taormina ha parlato, e secondo me ha parlato un po' troppo delle impressioni che ha avuto dei rapporti tra questa signorina e il ministro Brunetta, io ho subito detto, a scanso di equivoci, che mi sembravano delle parole un po' eccessive, perché non è che può sapere Taormina cosa c'è stato tra queste persone. Io sto a quello che dice Brunetta, naturalmente leggo anche quello che ha detto alla procura di Palermo e ai magistrati di Palermo questa ragazza, però fino a prova contraria io, tra la parola di una ragazza che fa la escort, ma non perché faccia la escort, insomma, fa certe dichiarazioni, e quelle di Brunetta, io non lo so, io così, a istinto credo quello che dice Brunetta, però Parenzo, tu o no? Tu che dici? Ma indubbiamente ma anch'io voglio usare questo metodo di ragionamento, cioè andiamo coi piedi di piombo, perché qui, ripeto, si può alzare la qualunque e sputtanare chiunque delle istituzioni, che non è soltanto il Parlamento, il capo dello Stato, il capo della Procura, cioè ormai siamo entrati in un giro vorticoso dal quale non si può più uscire, quindi a maggior ragione dico prudenza da parte della Procura, meno di queste carte ne escono, meglio è, fino a quando non c'è, se non altro, certo, un avviso, certo, di garanzia, certo, un rinvio a giudizio, un minimo di certezza. Primo, le carte, anche nella parola di Taormina ho sentito qualche considerazione in più rispetto ad un puro resoconto. Magari lui sa cose che noi non sappiamo e su questo non voglio entrare, non so. Va bene, comunque, insomma, Paolo, magari mi scrive, mi racconta quali sono stati i suoi rapporti con l'avvocato Taormina. No, chi se ne frega, dipende. Ma anche lì, quello è un professionista, dice mi può pagare, guardi che io costo caro perché è bravo e quindi mi può pagare, sì, no, bene. Poi c'è un'altra questione, Paolo, perché se c'erano tutti questi dubbi sull'avvocato Taormina, vi siete rivolti all'avvocato Taormina, mi scusi? La sento male, mi scusi. Perché i suoi conoscenti o lei, se c'erano tutti questi dubbi intorno all'avvocato Taormina, vi siete rivolti a lui? Ma guardi, i dubbi non c'erano ex ante, i dubbi sono venuti dopo, perché l'avvocato Taormina comunque... controparte, ve lo dico in maniera rapidamente, controparte aveva dei legali estremamente disinvolti, estremamente aggressivi, e ovviamente i miei consulenti, le mie mi hanno consigliato di rivolgermi ad un avvocato altrettanto aggressivo. Estremamente aggressivo. Talmente aggressivo che, ripeto, a un cliente comunque la prima cosa che dice per te dice ma c'hai però soldi se, se l'aggressività è questa a me uno che mi parla così gli dico grazie, cioè buonasera, infatti lei può essere libero di dire mi pare che però non l'abbia liquidato subito. Come? Non l'abbia liquidato, ha lavorato con voi poi alla fine o no? No, proprio, no, proprio al momento in cui mi ha detto. Lei, dunque, lei dice un personaggio, ragazzo, è un personaggio da prendere con le molle semplicemente per questa frase qua. So, mi pare, francamente, Paolo, un po' mi poco. Mi sembra comunque, visto che le parcelle dell'avvocato Taormina sono comunque parcelle salate, sì. Meno male. Ma questo non è un suo problema. Comunque si siano, come i professionisti nei miei confronti, gli altri si aspettano un certo tipo di. Ho capito. Paolo. Il comportamento non credo che sia il primo approccio, sia il più genere. Comunque poi non è che sia concluso di sopra, cioè, c'è stato un piccolo scambio di carte, mi sembra, poi dopo ho ritenuto che non fosse il caso di proseguire. Va bene. Poi gli avvocati grazie Paolo, ho il traffico che incombe, 20:45, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, la Zanzara, 2048 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta qui alla Zanzara. Paolo da Pavia, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Innanzitutto saluto lei e tutti gli ascoltatori che sono in... Io volevo far presente un mio pensiero. Naturalmente io sono una di quelle persone che in questo momento subisce... come cittadino questa situazione di delirio da onnipotenza. Cosa subisce lei, mi scusi? Innanzitutto una questione psicologica, perché addirittura. Ma mi scusi, io come cittadino italiano mi sento in qualche maniera offeso da questa situazione, non so lei. Offeso? Poi, no, io non sono offeso, non mi offendono queste cose. Che vuol dire? Si sente offeso da che cosa? Però lei è liberissimo perché... di sentirsi offeso. Perché... Allora, a me mi è già capitato diverse volte di andare all'estero. Sì. Però non mi ritiri fuori la solita cosa. No, ma infatti, però lei mi ha chiesto una rispondendo. E di essere equiparato a certe situazioni di cui io da lombardo, mi scusi, non sono un leghista. Ma equiparato a che cosa, mi scusi? Questa nostra... maniera di far finta di niente e andare avanti come se niente fosse. Non ho capito, sia più preciso. Lei va all'estero e ogni tanto le dicono che cosa. Ma come fate voi in Italia a non vedere queste cose? Tipo, basta guardare qualsiasi programma della televisione, vediamo giornalisti che vengono allontanati dalla TV perché esprimono delle idee diverse da quelle che sono. Chi viene allontanato? Mi scusi. Vediamo quello che succede con Santoro. Non mi pare che venga allontanato. Però no, mi scusi Paolo, andiamo per ordine. Paolo, però un attimo, che io sono un attimo agitato perché non sono abituato a parlare. Lei non deve essere agitato, deve essere tranquillo. Però io sto dicendo. Si ricorda Biagi? Stiamo parlando del presente. Io vedo praticamente una situazione politica dove. Sì. Manca poco che viene nominato il primo ministro il cavallo, come ai tempi di Roma. Cioè, lei dice la selezione della classe politica. No, io dico semplicemente che come italiani noi ci stiamo lamentando che questo governo non sta facendo niente, anche se francamente non vedo troppa alternativa al di fuori di questo. E da italiano dico, mi sta bene certe situazioni se ho un tornaconto, nel senso di vedere le cose che girano, però mi sembra che ci stiamo portando in una situazione dove veramente non vedo più sbocco. Non so, mi sembra un discorso molto generico. La ringrazio. Ruggero da Bari, buonasera. Sì, buonasera Cresciani. Io volevo tornare alla dichiarazione di Berlusconi, quella sui gay. Sì. Vabbè, non perdo tempo a dire che non sono d'accordo, ma invece volevo scendere al suo livello e provare a dire che non funziona. Quale livello, mi scusi? A quello di Berlusconi, dico. E provare a dimostrare che magari non funziona neanche nel suo modo di ragionare. Utilizzerò la Santanchè per dimostrare questa cosa. lei ha detto prendete le mamme italiane, andate a chiedere loro, ma voi preferireste un figlio gay o, uno che va con le donne? Sì. E lei ha detto che tutte direbbero, ma probabilmente è vero, probabilmente tutte direbbero che vogliono, non vogliono un figlio gay, vogliono uno che va con le donne. Dopodiché a queste stesse mamme magari proviamo a chiedere, ma vorreste un figlio che va con le donne, diciamo, un putaniere, o volete un figlio normale, cioè con la famiglia? Magari con le stesse donne dicono, ma forse preferiamo uno normale che ci fa i nipotini, visto che la Santa anche voleva il nipotino. Beh, Berlusconi da questo punto di vista, diciamo, i figli ce li ha. Allora, se vale questa scala di valori, che uno che va con le donne è meglio di uno gay, diciamo che vale perché le mamme lo vogliono così. E se vale anche che uno che è sposato o i nipotini vale più di uno che invece va con le donne, e allora a questo punto io vorrei avere un presidente ancora migliore di questo qui, che già non è gay. Ruggero, lei, però... lei mi sembra che si sta mettendo in un così in un ragionamento un po' particolare, insomma. No? Sì, voglio dire, sta facendo una scala di valori. Allora, se deve valere questa scala di valori, ci sarà sempre qualcuno di meglio di va. No, certamente, no, ma ripeto, secondo me è la frase in sé che... Che, è sbagliato, anche nel, che è sbagliato dire. Anche nel modo da grande comunicatore, perché poi vediamo se è un grande comunicatore, perché come diceva lei giustamente, che poi tutta questa dietrologia per ogni comunicazione magari è uno che ogni tanto gli scappa e deve parlare, ma anche volendo scegliere il suo livello, secondo me non regge. Grazie, Davide da Roma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani e buonasera a tutti. Velocemente Davide, devo dare spazio. Sì, velocissimo, guardi, io proprio parlando della battuta del primo ministro, io direi che alla conclamata presenza omosessuale nei media, quindi televisione, radio, anche nel mondo della cultura e dell'arte, io penso che quella del primo ministro sia una battuta che, mi permetta il tono ironico, ma che c'entra la presenza? Ci dà noi maci patriarchi un po' di speranza, questo è un biliardo gaudente che si è permesso insomma di dire dall'alto della sua d'età e anche della sua, diciamo, forma macista, di esplicare insomma quello che molti italiani pensano, adesso che sia giusto, sia sbagliato. Io invece penso che noi, adesso dico, l'ho sempre in tono ironico, noi maci patriarchi non ci scandalizziamo. Ma che vuol dire maci patriarchi? Sono curioso. Tutte le reti nazionali, reti private, è pieno di omosessuali, eppure io non è che dico a mio figlio ogni volta devo stare a sottolineare, non sottolineo né la differenza. Però scusa, a me non mi pare che sia così, tra l'altro, come dice lei, cioè, poi comunque io non ci faccio caso, cioè, non... nemmeno io. E allora qual è il punto? Montare polemiche sempre su qualcosa che qualcuno... Ma che vuol dire macio patriarco? Macio patriarco, che vuol dire? Macio patriarco, di essere un maschio che crede magari a questa forma patriarcale di famiglia. Ho capito. Che si è lei si definisce così? Prego? Lei si definisce così? Ma io sono proprio uno maccione antico, cioè io sono un primordiale. Antico. Dunque la frase però, di Berlusconi però non per questo non sono aperto, per carità, sono anche in cosmopolita, ho vissuto tanti anni all'estero, sono molto aperto, poi conduco un'attività che devo essere insomma... Devo chiudere, Davide, grazie, magari ci sentiamo domani. Frase di Zeffirelli di oggi, lui ha un'ossessione, quella della bellezza e giovinezza, è un vecchio giovanotto che adora le cose belle, è malato di giovanilismo, il che lo porta a fare errori veniali e la paga cara. Grazie. A domani, 18:30. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. La Zanzara.